Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Salute mentale per tutti, maggiori investimenti, miglior accesso per tutti ovunque. Buongiorno, apro la puntata di Obiettivo Salute Weekend con il tema della giornata mondiale della salute mentale che si celebra oggi, sabato 10 ottobre, e a cui dedichiamo la nostra copertina. In linea il professor Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Professor Mencacci, buongiorno. Buongiorno e buon sabato a tutti. Grazie professore, partiamo dai dati. Sono oltre 500 milioni le persone che vivono con disturbi mentali. Sono tantissime e questo numero è destinato ad aumentare a seguito proprio anche delle conseguenze della pandemia Covid. Ne abbiamo già i segnali anche via via calcolati, perché non solo disturbi del sonno, ansia, disturbi post-traumatici, ma anche aumento di depressione. Era già aumentata negli ultimi 10 anni di oltre il 18%, stiamo facendo previsioni di un ulteriore aumento di oltre il 5%, proprio perché impatto psicologico legato al distanziamento relazionale e all'isolamento, ma anche lutti complicati per le persone che sono mancate e soprattutto poi crisi economica con disoccupazione e impoverimento fanno sì che prevediamo almeno altre 150.000 persone in più affette da depressione. Tanto che la depressione è riconosciuta dall'OMS come prima causa di disabilità a livello mondiale, professore. Prima causa di disabilità, prima malattia cronica in Europa, 3 milioni nel nostro paese, di cui 2 milioni donne, e 1 milione con nella sua forma più grave, che è quella maggiore, e 130.000 nella sua forma addirittura resistente. È importante questa giornata dedicata a migliorare i servizi e quindi alle possibilità di avvicinare le cure, a cure più rapide, a cure più efficaci. Perché nonostante gli appelli ancora oltre il 50% delle persone non si curano, molte perché non riconoscono i loro sintomi che sono quelli della depressione e molte perché hanno paura, perché si vergognano di avvicinarsi alle cure. E noi vorremmo... Lo stigma è ancora molto forte, professore. Lo stigma è forte, la vergogna è forte, anche perché la depressione impatta su tutte le aree della vita, ma impatta anche sulla famiglia. Quindi si blocca la vita, le persone, l'individuo e i suoi familiari si isolano, aumenta il senso di esclusione e questo non aiuta nelle cure e le persone arrivano ancora troppo tardi sia al medico di medicina generale e ancora più tardi dagli specialisti per ottenere delle cure. Perché il messaggio è che ci sono è curabile e guaribile e questo lo dobbiamo fare. Professor Mencacci, perché questo messaggio non passa? Perché della malattia mentale viene ancora considerata una malattia altra, diversa da un'altra malattia, da una patologia che interessa un organo, penso al fegato, allo stomaco, ad un'altra parte del corpo, quando a essere coinvolto è il cervello, sale la paura. Cerchiamo di scotomizzare il problema, ci nascondiamo. Professore, perché questo messaggio non passa? Non siamo riusciti a farlo passare, a dire alle persone non vergognarti, chiedi aiuto, a riconoscere quei sintomi. Le famiglie spesso si sentono anche sole, abbandonate. Professor Mencacci, che cosa si può fare? Beh, intanto noi dobbiamo far giungere il messaggio che sono tutte condizioni curabili e guaribili e che esistono delle cure adeguate. E poi è un processo proprio di evoluzione, troppi sintomi, essendo legati a sintomi comportamentali o emotivi, sono stati confusi con delle situazioni a volte moraleggianti, a volte confusi addirittura con dei vizi capitali. Oggi sappiamo che tutto dipende da alterazioni a livello dello sviluppo del nostro sistema nervoso centrale e che le basi di tutte le patologie sono su basi biologiche, dove esistono fattori predisponenti come la familiarità e fattori precipitanti come possono essere gli abbandoni o le separazioni, ma anche fattori protettivi. I fattori protettivi sono gli stili di vita, ma sono anche la rete sociale, sono anche la capacità di affrontare e di ricevere cure. E quindi di fronte a questo stiamo creando un nuovo fronte. D'altra parte il cervello era il grande sconosciuto, il direttore d'orchestra che nessuno vedeva. Prima di salutarci, sono momenti difficili, momenti delicati, il Covid ci ha reso tutti più fragili, l'incertezza, la paura, i lutti, il lavoro che viene perso ci dà preoccupazioni. Che cosa possiamo fare? Che cosa le neuroscienze, le conoscenze della ricerca ci mettono oggi a disposizione per trasferire nella nostra quotidianità? Dobbiamo fondamentalmente sapere, questo lo devono sapere anche le istituzioni, che la necessità di preservare la salute mentale è pari a quella di proteggere la salute fisica. E quindi vuol dire dare un messaggio a tutta l'area della medicina generale, ma anche a quelli che sono le scuole, a quelli che sono anche i genitori, che è possibile affrontare i temi della salute mentale con chiarezza, dando informazioni e non opinioni, fare ovviamente screening perché conosciamo le popolazioni a rischio e quindi anche quello di permettere che i nostri centri di salute mentale siano potenziati e abbiano a disposizione le cure più innovative e che sia, come dimostra il Covid, la ricerca sempre più potenziata. E la ricerca nella salute mentale ha fatto passi da giganti in questi anni. Grazie professor Mencacci per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi e a presto. E a proposito di ripartenza, tra poco continuiamo ad allenarci per costruire insieme una nuova quotidianità con la professoressa Gwendalina Graffigna e con Andrea Vitali. Vi aspetto. Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Continua il nostro allenamento alla ripresa per costruire insieme la nostra nuova quotidianità. Insieme ce la facciamo e sarà bello. Come facciamo? Abbiamo tutto l'occorrente. Che cosa vi proponiamo? Di allenarvi con noi, di essere dei nostri. Che cosa vi diamo? Una pillola di psicologia, un piccolo compito per voi e un ispiratore che ci aiuterà a risolvere il compito. In linea con noi, infatti, la professoressa Gwendalina Graffigna, sarà lei a darci compiti, ordinario di psicologia all'Università Cattolica di Milano e direttore di Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica. Professoressa, bentornata, buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Abbiamo il nostro ispiratore, il nostro ispirator, che è Andrea Vitali. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti e grazie sempre per il titolo di ispirator. Non te l'ho dato io, te l'ha dato la prof. Perché? Vero, ha toccato giusto, vedi che lei con le parole tocca le corde giuste e sulle parole abbiamo lavorato, professoressa Graffigna, supportati naturalmente dai consigli di Andrea Vitali la scorsa settimana. Lo ricordo perché potete, se ci avete trovato solo oggi, recuperare la lezione della scorsa settimana. Professoressa Graffigna, un brevissimo riassunto della puntata precedente con una motivazione ad aderire, perché poi andiamo al compito di questa settimana. Allora, la volta scorsa abbiamo parlato delle parole, quelle parole che ci aiutano, ci tirano su, ci danno coraggio anche nei momenti di difficoltà, e c'era un task che era quello di condividere con noi le frasi che ci piace sentirci dire o anche quelle parole che apparentemente sono negative ma in realtà hanno un grande potere positivo. E se ce le scrivete sulle pagine di Obiettivo Salute oppure sulla pagina del nostro centro di ricerca Engagement Sub, noi ne teniamo conto, ci energizziamo. E poi c'è una piccola sorpresa, perché i primi potranno ricevere, ma questo lo lascio dire a te. Il potere della gratitudine, il libro che abbiamo scritto a mille mani, vero Andrea? Perché ci sono quelle di Andrea Vitali, quelle della professoressa Graffigna, ci sono le vostre che avete raccontato, le vostre storie di gratitudine. È nato questo libro che adesso è in libreria, dopo essere stato in edicola, che può arrivare a casa ai primi che fanno bene i compiti, ecco. E anche una prefazione di Nicoletta Carbone. Voilà, dove Andrea Vitali mi ha dato 7 più. Senti, ma noi abbiamo lavorato, sembra insomma, lavorare sulle parole, perché? Perché tante volte noi raccontiamo le cose con le parole sbagliate. Andrea. Sì, è assolutamente vero, ma a proposito appunto delle parole, riflettendo sulla trasmissione scorsa, mi era venuto in mente che tutto sommato il miglior augurio che ciascuno di noi può fare è proprio il buongiorno, che deve essere schietto, squillante, diciamo, non deve essere pronunciato come se uno fosse obbligato a dare buongiorno, insomma, facendo pensare che dietro quel buongiorno stiracchiato ci sia qualche altra intenzione. E nemmeno bisogna dire giorno, cioè tagliando via, praticamente rompendo la parola in due, lasciando solo quel giorno, che diventa come una sorta di vedova inconsolabile senza il buon che lo precede. Ecco, era questa che mi era venuta in mente. Mi piace. Mi piace, questa è suggerita caldamente a chi non dice né giorno né buongiorno strascicato ma grugnisce al mattino. Provate a dire buongiorno. Questa settimana lavoriamo su? Questa settimana lavoriamo sulle immagini, perché parleremo di immaginario, dell'importanza della fantasia, della creatività nella costruzione di immagini anche mentali. Perché infatti la nostra percezione della realtà è filtrata dalla nostra sensibilità, dalla nostra esperienza, dei nostri ricordi. Quindi noi abbiamo delle immagini mentali che talvolta possono essere traumatiche, alimentare la nostra sofferenza, oppure possono essere legate ad un ricordo di situazioni di benessere, caricate e caricarci positivamente. E quindi il punto sta proprio in quello, nel riuscire a focalizzare la nostra attenzione, il nostro ricordo su quelle immagini che ci fanno dire wow, che bellezza. Anche l'arte può essere in questo avere una funzione molto importante. E quindi il gioco sta proprio nel riuscire a ricollegarsi con delle immagini positive che o abbiamo nel nostro ricordo oppure le troviamo nel nostro contesto quotidiano, e se poi le riusciamo a condividere, a commentarle, e la certo. Pagina di Obiettivo Salute ci dà un luogo, beh, alimentiamo il contagio positivo di un valore lenitivo delle immagini belle. Immagine wow, quindi selezionate un'immagine facendo una foto, cercandola su internet, può essere qualsiasi cosa, un'opera d'arte, un luogo. Può essere anche la foto della Nico, Certo, anche uno può dire wow in qualunque modo, Andrea, poi chiederò a te. Oppure? Oppure la bellezza nascosta. Anche lì, la bellezza nascosta della Nico è difficile da trovare, ma se la guardate bene, bene, bene, il dettaglio lo trovate. La bellezza nascosta in che senso, professoressa? Perché dobbiamo allenarci a scoprire un dettaglio bello, un elemento bello in uno scenario quotidiano. Magari quel scenario un po'... Dai, quando ti cade l'occhio e vedi quando che magari c'è un fiorellino, c'è un... una scorcia, bellissimo, mi piace, ho l'immagine wow o la bellezza nascosta. Andrea, e qua abbiamo bisogno di te, devi metterti a lavorare tu. Io in attesa che tu mi mandi una tua foto, così almeno la metto sul comodino. Sì, per trovare la bellezza nascosta, alla fine dire guarda, forse quella puntina del lobo, forse è mica male. Devo dire, mi piace molto l'argomento, mi piace molto quello che ha detto la prof sull'immaginario. Devo dirti che una delle immagini positive che io ho tutti i giorni è una poesia. È una poesia di Vittorio Sereni che ho appesa proprio in camera, una riproduzione di questa poesia, si intitola Terrazza. Il soggetto è un uomo che sta proprio su una terrazza e sta guardando il lago, sta guardando il passaggio di una torpediniera, così lui la definisce nel testo, e riflette sul tempo grazie a al passaggio di, diciamo, di questa nave. Cioè, quindi è un'immagine che ha in sé qualcosa, diciamo, di malinconico, perché il tempo passa, però è anche un invito al cogliere il giorno, proprio al carpe diem, perché il tempo fugge e non abbiamo assolutamente il diritto di sprecarlo. E devo dire che per me è una sorta di, oltre che un'immagine, una preghiera laica che ormai so a memoria e che, ripeto, rilego tutte le mattine appena mi sveglio. Quindi questa è la tua prima indicazione, ma hai altri suggerimenti per aiutarci? Non avevo dubbi. No, ascolta, io ho dei suggerimenti che sono stagionali, perché mi piace molto, diciamo, il panorama naturale che mi contorna. Quindi in questa stagione l'immagine che mi dà felicità, che mi intriga di più, è proprio guardare la cima della montagna che ho di fronte, che si illumina, diciamo, lentamente, perché il sole è solo, diciamo, alle mie spalle. E guardandola ho sempre avuto, diciamo, la fantasia di vedere sulla cima di quella montagna un suonatore di cornamusa che sta lì proprio in cima e che saluta il nuovo giorno suonando una melodia di benvenuto. A volte esco di casa e vado sul lungolago per godere, diciamo, di questo spettacolo naturale che mi mette un sacco di felicità, anche perché amo molto il suono, diciamo, della cornamusa. Il terzo suggerimento è anche questo abbastanza stagionale, perché appena posso non mi perdo mai nel primo pomeriggio l'uscita di un velista. È un solitario, esce praticamente da solo, con qualunque tempo, ma soprattutto se il tempo, diciamo, è bello, esce con la sua barca, si piazza quasi al centro del lago, poi se ne sta lì un paio d'ore praticamente fermo, se c'è un po' d'aria mette le vele al vento, non si muove, e io mi immagino che lui sia lì per godere dei soli rumori, diciamo, della natura. Se posso fare un riferimento letterario, questa cosa mi ha ricordato un bellissimo libro di una scrittrice nordica, si chiama Rosa Lixon, il libro si intitola La moglie del colonnello, una frase bellissima che lei cita a un certo punto, quando di sé dice di essersi sempre sentita parte della natura più che del genere umano. Guarda che è un'espressione fenomenale questa. Professoressa Graffinia, è di una profondità che tocca il cuore. Assolutamente, quasi qua andiamo sul romanticismo e quindi tocca le mie corde preferite. Allora, stia lì con le sue corde preferite, perché andiamo a sentire quelli che sono i messaggi, tra i tanti che sono arrivati, che abbiamo pinzato, recuperato per farveli ascoltare e per attivarvi e motivarvi a mettervi in gioco. Le esperienze negative rafforzano il carattere e fanno apprezzare tutto ciò che c'è di bello nella vita. La fine di un progetto deve sempre essere l'inizio di un altro. Domani è un altro giorno. Il raggiungimento di un fine porta alla felicità. Andrea, hanno giocato benissimo con le parole. Lo chiedo prima a te e poi naturalmente il voto della professoressa Graffinia. Devo dire che tra i suggerimenti arrivati quello che mi intriga di più è quello che afferma che la fine di una cosa deve coincidere con l'inizio di un'altra. Perché altrimenti si apre, diciamo, una fase di stanca, di vuoto che può, come dire, disorientare il soggetto. È un criterio che io applico sempre nella scrittura, nella lettura, nelle cose, diciamo, che mi piace fare, per cui concordo pienamente con questo suggerimento. La fine di un progetto deve essere sempre l'inizio di un altro. Esatto. Professoressa Graffinia, dal punto di vista psicologico questa è una bella molla. È bellissimo, ma devo dire che tutti e quattro questi contributi sono bellissimi. Mi sta diventando un po' tenerina. Confesso una cosa, che rispetto alle immagini, e così mi collego al task di quest'oggi, ce n'è una frase, quella del domani un altro giorno. Rossella! Confesso che è il film culto della mia adolescenza, per cui ecco, quindi con questo da una parte do 10 lode e dall'altra mi aggancio al task di questa settimana. Vi faccio già il mio, la mia immagine mentale a questo punto è via col vento con questo sprint verso il futuro. E l'immagine di Andrea? ce ne hai regalato, cioè il regalato diverse immagini, ma quella che ti viene in mente in questo istante per così attivare e motivare i nostri amici ad allenarsi con noi? Ma guarda, una volta terminata questa bellissima chiacchierata sarà quella di uscire a fare due passi per respirare un po' di ossigeno puro e andare sulla riva del lago ad ascoltare la musica dell'onda che piano piano finisce sulla riva. Vi ringrazio, mi avete dato delle emozioni belle. Io adesso guardo Laura Vanossi di là dal vetro che mi dice che dobbiamo salutarvi, però vedo che anche lei è un po' commossa. Mi raccomando, allenatevi con noi, pagina Facebook di Obiettivo Salute e buon sabato. Grazie ad Andrea Vitali, alla professoressa Graffinia, grazie a voi. Grazie a tutti, buongiorno. A domani. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it